Cari amiche, cari amici, buonasera, martedì sera, Brussellando, Radio Alma, Marie D ai microfoni. E anche George. E anche George, che finalmente è in orario. Si sente, George. In orario. In orario, tanto succede, oh, finalmente. Ogni tanto succede. Martedì scorso non sei venuto? Come non sono venuto? Come non sei venuto? No, con lo spirito c'ero. C'ero con lo spirito. Va bene. Salutiamo Daniele in regia. Buonasera a tutti. E la nostra Fiordaliso. Silenzio attentivo. Va bene, silenzio attentivo. Silenzio attentivo. Eh beh, è arrivato il freddo, Giorgia. Eh sì, purtroppo è arrivato il freddo. Ma sai che io mi sono abituata ancora all'idea che possa essere già inverno. Non ti sei abituata? No. Vedrai che fra qualche giorno dovrai abituarti per forza. Eh già, devo cambiare proprio tutto. Questa le cose è la saggezza di Giorgia. Le cose dell'abbigliamento, non cioè, ci sono il fatto abituata. È che 15 giorni fa era estate, hai ragione, questo è il problema, adesso è inverno. Bah. è vero bah. Prima di cominciare la nostra puntata, questa sera è una puntata molto speciale perché Brussellando, come sapete, di tanto in tanto dedica anche un po' di spazio a scrittori italiani ma anche francofoni. Quindi ci sarà sicuramente un'intervista, possiamo dirla, magari in francese, in italiano, insomma, non mettiamo limiti alla provvidenza. In napoletano, perché sì, no? D'altronde è la mia lingua madre, che... quindi. No, il tuo non è napoletano. Ah, no, che cos'è? Il campano. No, anzi, se proprio volessi essere precisa, è cilentano. Allora, cilentano proprio, non è napoletano. Però sono fratelli i due. Infatti io parlo il veneto e non il veneziano, che è un po' diverso. Eppure ero convinta che tu parlassi il veneziano. No, perché il veneziano si ferma alla città di Venezia e diciamo invece il veneto anche a Mestre. Anche poi il veneto si ampia. È vero che il mio dialetto è veneziano di base, però ha delle influenze così che vengono anche dal trevisano, più dal trevisano che dal padovano. Delle influenze ugrofinniche. Sì, l'influenza ugrofinnica la lasciamo perdere. Di sicuro Giorgia avrà le influenze ungare. No, mentre è difficile quelle finniche non lo so, ma ungare di sicuro. No, invece di padovano, il padovano è la lingua del Ruzzante. Se voi avete magari mai scorso una delle opere del Ruzzante, insomma, sono non ho mai avuto questo piacere. E sono molto difficili da capire. Ecco. E sono molto difficili. Vabbè, ma io avrei un traduttore in contemporanea, non qualora. Sì, non è semplice anche per me. Devo concentrarmi e riesco a leggerlo, però devo concentrarmi. Nessuno l'ha mai tradotto? No. No? No. Beh, abbiamo lanciato un'idea allora a coloro che ci ascoltano. Veneti o veneziani che possano leggere. Ma non avrebbe senso nemmeno tradurre Goldoni nelle sue opere veneziane. No, amici di Google Translation, una Vabbè, lingua in più. Ma per dare almeno un'idea. Ah, per dare un'idea, beh, sì. D'altronde, non scusa, Esiodo l'hanno tradotto? Sì, Esiodo l'hanno tradotto perché era greco. E allora, vedi, se hanno tradotto Esiodo. Ma non è stato tradotto adesso. Millenni fa. Un bel po' di tempo fa. Intanto non so se ti ricordi cosa si diceva dal Metastasio. Si diceva Metastasio che era il gran traduttore dei traduttori d'Omero, per pigliarlo un po' per i fondelli. Ah. E quindi, sì, è stato tradotto un bel po' quindi di quindi ci manca un Metastasio Esiodo. Italiano? In questo... No, anzi, no, veneto. No. Ci manca il Metastasio Veneto. Ci manca il Metastasio Veneto. Va bene, prima di passare quindi alla nostra ospite di questa sera, che è Italia Gaeta, e che siamo veramente felici di avere qui in studio perché, come poi lei ci racconterà, questo è il suo primo racconto. E quindi noi siamo davvero felici di poterlo presentare a Radio Alma, a Brussellando. Felici due volte perché anch'io sono di origine campana, come la stessa Italia, anche se io vengo più dal lato salernitano, invece Italia, come ci racconterà, dal lato avellinese. Però insomma è un doppio onore e un piacere raccontare anche di questa sua storia. Magari Giorgio, vogliamo citare qualche evento in corso oppure che avverrà nei prossimi giorni? Una cosa interessante che vedo qui è Europalia Brasil, quindi quest'anno al Brasile, e quindi nell'ottobre 2011 l'Atomium per la prima volta nella storia del suo festival celebra il Brasile e approfitterà dell'occasione per far scoprire al pubblico l'architettura moderna brasiliana, udite udite, dal 1930 al 1960. Ma interessante. Sì, molto interessante. E dove avrà luogo? Dove si svolgerà? Al Bazar? No. Ho detto l'Atomium. Ah, l'Atomium, scusa. L'Atomium in italiano, anzi in latino sarebbe Atomium, perché... Beh, in latino, siamo in Belgio, quindi lo legge la francese, no? Vabbè, però è una parola latina. Lo so, però sei in Belgio, quindi come la leggi? Rispettando la regola latina o quella francese? Beh, io direi quella latina. Italia, come lo pronunceresti? L'atomium. Ecco. L'atomium. Però perché usare una parola latina, visto che c'è anche l'atom? E c'è anche un... e si scoprì che era fiammingo. Potrebbe anche essere. No, beh, non c'è non anche il essere... gioco di parole sull'ultimo atom. Sì, appunto, l'ultimo atom. Ma atom, perché atomium? Cioè, io mi chiedo, ma questo me lo chiedo anche per tutte le lingue. Se si usa una lingua straniera, perché si pronuncia una lingua di importazione e non una lingua originale? Beh, è una domanda, potremmo chiederlo a qualche lingua. Lo chiediamo a Italia, che è qui con noi. Una sua idea. Ma perché, forse perché siamo in Belgio? I miei genitori vivono a Mons, in Bergen. Mm-hmm. Bergen, Mons. Quando la mia famiglia veniva in macchina per trovare la casa, dei miei genitori non la trovavano mai perché era scritto Bergen. Alla fiamminga, quindi. No, ma quello che mi chiedo è, noi qui abbiamo una parola latina che è atomium, ma la leggiamo alla francese. Loro invece quello di Mons e Bergen è proprio il fiammingo o il francese. Mm. Quindi la differenza come Lille, che mi piace, che è Race. E quindi lì proprio una lingua diversa usata. Qui invece si usa una parola che con una pronuncia tipo invece di Bergen o Bergen, cioè usare una parola fiamminga però pronunciandola alla francese. Qui come usare una parola latina. Perché non ti capiscono? Perché il 90% lo pronuncerà così come richiede la lingua propria. Ah, e il 10% lo pronuncerà secondo la lingua, in questo caso latina. Va bene, allora, atomium, prego. Non parlando nemmeno del fatto che ci sono delle parole. Adesso forse che sì. Ci sono delle parole che diventano proprio, si entrano nella lingua, se possiamo dirlo così. Per esempio, l'atomium, secondo me, è un esempio tipico di questo, è un simbolo di Bruxelles, è impossibile che si pronunci altrimenti che come si pronuncia qua. Mentre ci sono delle parole che rimangono sempre straniere, per esempio alcune espressioni legali tipo de facto, e de facto non è de facto. Tennis, tu come lo dici? Tennis. Così come l'hai pronunciato tu. Come lo dici un belga? Tennis. George, mio nonno dice che ha messo la macchina nel garage, e ti dico tutto. Nel garage, vabbè, non solo tuo nonno, ecco, insomma, garage, non vorrei che poi diventasse soltanto una questione di legata all'età. No, va bene, quindi insomma, questo, un giorno parleremo di interpolazioni. Mi piace, sì, d'accordo, Giugi. Comunque si dice atomium in latino, perché essendoci atomium in latino, atomium. L'atomium a bruxellano. E quindi l'atomium, e quindi non il Bosar, farà scoprire appunto l'architettura brasiliana. Che strano, Europalia l'atomium, mi sembra tanto strano. Beh, perché è un'architettura moderna, quindi ci sono delle opere, ci sono dei disegni. Ah, quindi sarà sotto dove c'è l'ufficio informazioni dell'Atomium, certo. Perché altrimenti... Certo. E quindi si potrà infatti scoprire la maquette, che non so in italiano come si dice. È bella domanda. Si chiama plastico, però non mi piace. Bozza in italiano. No. Sì, ma in questo caso non è una bozza, perché parliamo di arte. È maquette, è proprio un plastico, quindi mi piacciono tanto Porta a Porta. E quindi plastico del padiglione brasiliano all'esposizione universale del 58, cioè riscoprire, che sarà, bello, interessante, lo ritireranno fuori. E quindi niente, all'Atomium una tariffa da massimo 8 euro, quindi più che affrontabile, dalle 10 alle 18, dal 4 ottobre, quindi già iniziata, ma fino al 15 gennaio. Ah, quindi prossimo. C'è tempo, il sabato è aperto? Sai, noi qui da queste parti. E sabato aperto sì, perché non dicono nulla. Quindi sì. Domenica anche. Sabato e domenica incluso. E giorno di chiusura? Nessuno. Non c'è. Perfetto. Allora direi magari un suggerimento musicale, poi torniamo in studio per la nostra intervista. Allora magari prima di ascoltare questo suggerimento musicale della regia, Italia, est-ce que tu veux raconter quelque chose sur toi, donc très brièvement? Beh, donc je m'appelle Italia Gaeta. Ou alors, en Belgique, Italia Gaeta. Quand même Gaeta. Oui, c'est pas une... Gaeta. Gaeta. En Belgique, Italia Gaeta. Gaeta, ah, tu vois Italia Gaeta. Gaeta. Très bien. D'ailleurs, souvent, enfin, quand j'étais plus petite, on croyait que Gaeta était mon prénom, parce que Gaëtan. Ah oui. Voilà. C'est vrai. Ouais. Et L'aide est mon premier récit, mais je suis conteuse aussi. Donc avant d'avoir écrit ce récit, ce livre, ça fait depuis 2002, je raconte des histoires et j'écris donc mes spectacles. Et dans mes spectacles, c'è sempre l'Italia, da una parte a un'altra, con le canzoni, con una parola un po' speciale, sempre c'è l'Italia. Dunque, voilà, et mes parents viennent en effet près d'Avellino, Chelsea di Forina, un petit village. Et mon père est immigré il y a plus de 50 ans. Il est venu travailler dans les mines de charbon comme beaucoup d'Italiens de l'époque. Cari amici, Bruxellando questa sera è con noi ospite Italia Gaeta, autrice di LED. Donc, on venait de parler de cette influence de l'Italie qui est toujours présente dans tes œuvres. Donc, mais quelle a été l'influence même de la culture belge, si il y a une influence? Mm-hmm. Donc, est-ce que tu peux nous raconter la rencontre entre les deux? Mais moi, je suis née en Belgique. J'ai quatre frères. Mon frère aîné est né en Italie. Les autres, on est tous nés en Belgique, à la maison. Et avec mes parents, j'ai toujours parlé napolitain. Ouais. Et avec mes frères, français. Donc déjà là, la double culture à la maison, elle existait déjà. Et au fur et à mesure des années qui ont passé, je me suis attachée de plus en plus à mes racines. Vraiment, même dans mon métier de conteuse, je n'aurais jamais imaginé en commençant au début que l'Italie allait être aussi présente. Et je suis toujours à la recherche de mon histoire. Il y a quelques années, je suis descendue dans une mine de charbon à Blény. Il y avait un vieux mineur italien qui faisait le guide. Et pendant toute la traversée, je ne sais pas comment dire autrement, j'ai pleuré. J'avais l'impression de voir mon père partout. Mmh. Et voilà, moi j'ai vécu au milieu d'une population italienne, dans un quartier italien, et j'allais à l'école en français. Je suis devenue au départ professeur de français, donc la dualité, elle est là dans toute ma vie. Mmh. Voilà. Mais ce qui est très important pour moi, en tout cas, je trouve que c'est vraiment une richesse pour moi, c'est de garder cette culture d'origine aussi, mais aussi tout ce qui tout le rituel qui accompagne cette culture, les plats traditionnels à certaines fêtes, d'ailleurs on le retrouve dans le livre. Ma mère, quand il y a des orages très violents et qu'elle a peur, elle prend des pétales de rose, elle met tout sur devant la porte et elle prie, parce que dans son village c'est comme ça, et ça protège de l'orage. Donc, ma vie, elle était remplie de tout ça. Et par contre, est-ce qu'il y a eu des écrivains qui ont joué un rôle dans ton style? Soit belge, soit italien, n'importe, européen, je veux dire, mais bon, des écrivains. Dans mon métier de conteuse, il y a eu deux personnes importantes. Il y a eu Italo Calvino, d'abord, qui a fait un recueil de contes. Il a été dans toute l'Italie et il a été chercher des versions de contes traditionnels. Et puis après, j'ai eu un grand amour, et j'ai toujours un grand amour pour Giambattista Basile. Je me régale quand je le lis, je ris tout haut. Je trouve qu'il est tellement, c'est tellement l'Italie dans toute son exubérance et sa truculence que j'aime beaucoup. Alors toujours au niveau du conte, un auteur avec qui j'ai travaillé et qui m'a accompagnée dans cette recherche du conteur, c'est Henri Gougou, qui est un conteur français. Ah. Voilà. Mais bon, je ne connaissais pas le dernier, donc. Non. Et maintenant, on vient donc au sujet de ton livre. Et c'est très bizarre, parce qu'on n'a pas l'habitude aujourd'hui de parler d'un thème pareil. Donc, pourquoi un livre sur une femme laide? Pourquoi donc cet argument-là? Mais la laideur, c'est toujours quelque chose qui m'a touchée, qui m'a interpellée. Je raconte dans un spectacle sur des histoires d'amour qui s'appelle Amore, je raconte une petite histoire, et je vais la raconter ici, c'est très simple. C'est mon premier amour, c'était un Italien du sud du pays, très au sud, et je dis là où les hommes sont de vrais hommes et les femmes des femmes. Et donc, il était très beau, très très beau, et toutes les filles le regardaient vraiment... un peu les yeux pleins d'envie, et il m'a choisi. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi il me choisissait. Je ne me trouvais pas belle par rapport aux autres. Et donc, lui, il a senti ça. Et il m'a appelé, il m'a dit, tu sais, la beauté dans la vie, c'est pas le plus important. Et moi, ça m'a... Il voulait me faire un compliment. Il voulait me dire, c'est pas grave, il n'y a pas que ça. Mais moi, je l'ai pris comme une gifle. Je me suis sentie vraiment laide ce jour-là, très très laide. Et donc, c'est quelque chose qui m'a aussi accompagné le regard qu'on pose, nous, sur les autres et que les autres posent sur nous. Où commence la beauté, où commence la laideur? Mm-hmm. Est-ce qu'avoir un gros bouton sur un front, c'est être laid? Est-ce qu'avoir un œil de verre, c'est être laid? Il y a des femmes magnifiquement belles qui n'arrivent pas à accepter leur beauté. Donc, c'est quelque chose qui m'a tracassée. Donc, un jour, je suivais un atelier d'écriture avec Daniel Simon, que vous avez reçu ici. Et il a demandé à tous les participants, si vous deviez écrire sur quelque chose, sur quoi écririez-vous? Et donc, moi, il y avait deux sujets qui me touchaient, c'était la laideur. Et puis, mon père était très malade à l'époque et il avait des pertes de mémoire. Et c'est un sujet qui m'intéressait aussi, c'était d'imaginer où toute la mémoire qui part, tous les mots qui partent, où partent-ils? S'ils partaient dans un autre monde, je sais pas moi, ou nourrir d'autres personnes, enfin voilà. Et Daniel m'a demandé à me rencontrer, a dit qu'il aimait bien ma façon d'écrire et qu'il voulait que j'écrive sur la laideur. Donc il a été mon guide, quoi, mon impulsion. Sans lui, je n'aurais pas écrit ce récit, je n'y aurais pas pensé parce que moi j'avais l'habitude d'écrire des contes, d'écrire des nouvelles très courtes, mais pour moi ça a été vraiment un défi d'aller si loin. Et qu'est-ce que ça veut dire alors être laide aujourd'hui? Ah ça. Mais par rapport à ton histoire. Oui, oui. Mais on est quand même dans une société où le paraître est tellement important, où tout ce qui dénote de la différence ou de tout ce qui est en trop est quelque chose qui est presque insupportable. J'imagine qu'on n'a jamais été aussi loin dans les opérations chirurgicales, de la plus petite à la plus grande. Donc, être laid aujourd'hui, c'est quoi? Ma fille n'arrête pas de se trouver laide alors que je trouve qu'elle est belle et je ne la regarde pas qu'avec les yeux d'une mère. Donc, être laid aujourd'hui, c'est quoi? C'est ne pas pouvoir accepter son image dans le miroir. Venons donc même à la protagoniste de ton conte. Parfois elle s'appelle Tempéranza, parfois elle s'appelle Espérance. Est-ce que tu peux nous clarifier cette différence? Parfois elle s'appelle Tempérance. Tempérance, oui, pardon, je l'ai dit à l'italien. Parfois elle s'appelle Espérance. Oui. Mais en fait, en écoutant les gens me parler de mon livre, je me suis rendu compte que mon héroïne, elle avait aussi une dualité en elle, cette double culture. Quand elle est avec ses parents, c'est eux qui lui ont choisi ce prénom, Tempérance. Elle est et ses parents ne lui renvoient pas une image d'elle positive. Et donc elle est Tempérance, elle est fermée, elle est laide. Sa grand-mère, Nonna, lui a choisi un prénom, Esperanza. Et quand elle est avec Nonna, dans les yeux de Nonna, elle se voit belle, elle est dans la joie de vivre, elle ne se pose pas de questions, et même si elle se les pose, elle continue à avancer. Et donc je me disais, tiens, en fait, c'est comme si le côté de l'Italie, qui est dans le livre, me donne à moi aussi cette joie de vivre. Et je crois que c'est une nostalgie d'une Italie que je n'ai pas connue. C'est une nostalgie de l'Italie de mes parents. En fait, c'est une nostalgie de mes parents qui fait que Esperanza, qui apporte cette espérance. Et donc, on a aussi un peu parlé des ados d'aujourd'hui. Et l'histoire d'Esperanza, en tout cas, elle me semble être quand même similaire à ces jeunes d'aujourd'hui qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Est-ce que tu vois des similitudes entre Esperanza et cette nouvelle génération? Oui, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils sont, mais ça, je crois que ça a toujours été, mais ils sont vraiment intransigibles avec ceux qui ne sont pas comme eux, ceux qui sont différents physiquement, intellectuellement, ceux qui font pas partie d'un groupe, même pas faire partie d'un groupe, c'est terrible, quoi. Donc, elle se retrouve complètement isolée et elle n'a pas d'autre solution que d'avancer toute seule. Elle est aussi très attirée par... par tout ce qui est noir quand même et assez macabre et le monde comme ça de la nuit. Et je crois que les ados sont attirés par ce côté un peu sombre de la planète, ouais. Ce côté un peu dur. Ça les attire même si ça fait peur. Et donc Esperanza, elle est là-dedans, elle se cherche là-dedans. Elle va très loin dans l'obscurité pour se trouver enfin. Oui. Et en tout cas, par rapport à la famille même d'Esperanza, c'est la nonna, la grand-mère, qui a, comment dire, qui joue un rôle très important. Elle est même un personnage très fort. Peut-on dire qu'elle représente la tradition, donc la continuité entre les jeunes, donc une nouvelle ère, une nouvelle génération et le passé? Mais en tout cas, ce qu'elle représente, c'est un passé qui est ouvert sur la jeunesse. C'est un passé qui, oui, qui accompagne, mais qui est tolérant, qui donne de l'espérance, voilà. Et c'est un passé qui, en même temps, comme je disais, vient avec les racines, vient avec ses traditions et offre ses traditions. Il y a une scène dans le livre où Nonna met des tomates pelées en bouteille. Mais quand j'étais petite, on faisait ça. Ben, oui. On faisait ça, on était dans le jardin, on mettait des grandes tables et on mettait des cuves pour mettre les bouteilles et on chantait, on mettait. Et ça, ce souvenir-là, je trouve que c'est, voilà, c'est une tradition, mais c'est beau d'emmener ça. Et Esperanza, elle se nourrit de ce qu'elle a vécu cette journée-là. Elle était parmi ces vieilles femmes, mais elle était acceptée comme elle était. D'ailleurs, la nonne, elle est un peu partout. Elle revient dans sa mémoire par rapport aux souvenirs dont tu, par exemple, as parlé. Oui, oui. Elle est là, elle est partout, mais c'est aussi la nonna qui l'a presque éduquée, élevée, qui l'a faite femme. Ouais. Elle va chercher ses hobbies, c'est avec la nonna, même si la nonna, elle comprend rien à ça. Elle disait, quoi, ce truc? Donc, c'est vraiment... C'est l'image de la féminité. C'est aussi la nonna qui lui dit, mais tu, dans la vie, jamais tu ne te laisseras faire, ma fille. Jamais, promets-moi ça. Et dans mes yeux, tu es belle. Et donc, ça l'accompagnera tout le temps, tout le long de sa vie, même quand nonna sera morte. Oui. Et là, il y a quand même des passages qui sont, faut le dire, très tristes. Moi, je viens de perdre mon grand-père il y a quelques mois, donc il y a des morceaux dans lesquels je me suis retrouvée moi aussi. Mais en fait... ouais, pardon. Non, vas-y, non. Je pense quand, que... Oui, j'ai commencé à écrire au mois d'août, et au mois de décembre, mon père est mort. Ah, ouais. Et c'est pas... Bon, j'ai envie de dire, j'ai beaucoup écrit pendant la mort de mon père, comme si la mort de mon père avait duré des mois, et des mois, et des mois. Donc c'est vrai que tout le décès de Nonna et tout ce qu'elle ressent, ben c'est quelque chose qu'on ressent devant la perte de, ben justement, de la continuité, des racines, de quelque chose qui disparaît, quoi, de quelqu'un qui disparaît. Oui, en italien on dit pilastro. Désolée, je me souviens pas maintenant le mot en français. Donc quelqu'un peut m'aider? Un pilier. Un pilier. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Donc oui, c'est oui, comme c'est un pilier. Oui. Un son roseau. Oui, oui, tout à fait. Oui. Donc est-ce que, par exemple, on pourrait donner un mot qui décrit la famille italienne? Aujourd'hui? Oui. Par rapport à ton expérience. Oui. Je dirais exubérance, envahissement. Et celle belge? Et encore. Et la famille belge? Ce sont des généralités, hein. Ça veut rien dire. Bien sûr. Peut-être plus de réserve, peut-être. Oui. Quelque chose de plus cadré, ouais. Une structure, oui. Et celle belgo-italienne? Mamma mia. Io la domanda però su questo punto. Vai, sì. La mia domanda su questo punto è, non so se ci hai mai pensato, ma esiste una connessione fra il clima e queste due definizioni che hai dato della famiglia italiana e belga? Non ho mai pensato, ma forse è vero che quando c'è il sole, anche il sole, quando si vede qui, anche quando c'è il sole in Belgio, tutti stanno con il sorriso, c'è un po' c'è più di vita, più di gioia, sicura. Al sud almeno. Al sud. No, è una cosa, perché una cosa che io noto da molto tempo, e annoto da molto tempo. Sono proprio le differenze climatiche e sto studiando le differenze climatiche e i rapporti interpersonali in rapporto alle differenze climatiche. Beh, dovresti leggere Montesquieu, che tanto ha scritto in merito. Sì, vabbè, però Montesquieu insomma, scriveva, però... ma adesso cercando di fare un'analisi sociologica del perché, non sul, sul ti caso. Ti do un suggerimento di lettura. Io lo faccio volentieri, lo faccio. Non ho letto questa parte di Montesquieu. Ti domani ti invio il link. E veniamo quindi magari a Esperanto. Ma magari vorresti leggere un passaggio, sì, per dedicare magari qualche parola anche a coloro i quali ci ascoltano questa sera. Allora... Hai una voglia, no? Hai un desiderio particolare? Sì, sì. Tu ce l'hai? Allora, sì. Sì, sì. Allora. Mi sembra, sì, sì. Oui. Un soir, Nonna lui avait lu une histoire de son recueil de contes, Le Prince Grenouille. Toi aussi, Karina, un jour quelqu'un viendra et te verra comme tu es vraiment, douce et intelligente. Et belle aussi? Oui, à l'intérieur. Nonna, pourquoi je suis comme ça, dehors? C'est le diable qui t'a joué un vilain tour. Il t'a jeté un mauvais sort. Et tous les soirs, la vieille dame et sa petite fille priaient. Jésus, Jésus, je ne recommencerai plus. C'était leur secret. Esperanza faisait semblant d'y croire et Nonna n'était pas dupe. Au fil du temps, le rituel s'était modifié. La prière était devenue une chanson rythmée différemment chaque soir. Jazzy, reggae, tango. Esperanza y avait même ajouté une chorégraphie. Quand Isabelle, c'était la maman d'Esperanza, avait quitté la maison pour Alfred, Nonna avait prolongé la prière. « Jésus, Jésus, je ne recommencerai plus. Alfred, Alfred, t'es qu'un trou du cou. » Esperanza avait appris cette nouvelle expression à sa grand-mère qui en raffolait et l'utilisait à tout venant. Nonna était son rayon de soleil, sa boisson énergétisante, son rempart. Même Hakim, c'est un collègue d'école, voilà. Même Hakim se tenait à carreau devant la vieille dame. Elle l'avait repéré à la sortie et elle l'avait réduit en miettes en quelques mots. « Giovanotte, c'est toi qui es si gentil avec ma petite fille. Tiens, je t'ai importé un morceau de panettone. Donne-moi le bras pour m'aider à traverser. Il paraît que tu es si aimable. » Elle était mielleuse. Elle l'avait agrippée et ne le lâchait plus. Elle s'était mise à parler très fort en italien, en pleine rue. Hakim essayait de partir, mais la vieille dame avait crié plus fort. « Je vais faire caca. Ma couche culotte est pleine. » « Je le sens, brave petit, tu m'accompagnes aux toilettes pour m'aider à me changer. » Hakim avait pâli. Esperanza avait rejoint sa grand-mère à ce moment-là, et Hakim s'était enfui soulagé. Désormais, il ricanait de loin en voyant Esperanza, mais ni lui ni sa bande ne s'étaient plus approchés de la jeune fille. C'était la vieille dame qui allait à toutes les réunions de parents. Toujours le même discours, intelligente mais renfermée, peu participative, asociale. Nonna s'emportait à chaque fois. « Ils ne te connaissent pas. » Ils ne font aucun effort. Ils s'arrêtent à ce qu'ils croient voir. Stupido, tous. Moi, je sais qui tu es, Karina. Je sais comment tu ris, comment tu dors, comment tu chantes, mia bella. Nonna, je ne suis pas belle. Regarde-moi, Karina. Dans ce miroir-là, tu es la plus belle. Et elle gloussait de plaisir. Ringraziamo Daniele per questa bellissima canzone di Pino Daniele dedicata a Napoli. E, quindi siamo in compagnia di Italia Gaeta. E volgiamo ormai al termine dell'intervista, quindi Italia, a conclusione di quello che ci siamo dette, magari sommariamente, insomma, parlare di questo viaggio di Esperanza, perché nel tuo racconto tu termini con un punto di domanda, con un interrogativo, quindi magari, insomma, fare un attimo una sintesi rispetto a questo viaggio. Oui, c'est vrai que Esperanza, elle voyage, elle est en Belgique et ben là, en tout cas, elle ne s'y sent pas bien après la mort de Nonna, donc elle voyage. Elle retourne à Naples parce qu'il y a un autre un personnage important aussi dans l'histoire, c'est son oncle, Zio Umberto, qui est curé dans une église sur un village et curé un peu spécial. Il ressemble fort à Don Camillo, là, le Don Camillo Pepone. Donc elle va là et puis elle va en Angleterre et puis elle retourne en Sicile où elle s'installe finalement. Et la fin de l'histoire, elle est pleine de questions parce que, en fait, j'ai écrit d'une drôle de façon. Je sais qu'il y a des gens qui font un résumé avant d'écrire pour savoir, en sachant très bien ce qu'ils vont dire au début, au milieu et à la fin. Et moi, je savais pas du tout. Donc j'ai commencé à écrire et je laissais Esperanza me parler. Un peu comme ça. Et donc, la fin de l'histoire, je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, si elle a fait ce voyage, si le temps est passé vraiment, si elle attend à cet endroit-là, je ne sais pas. En tout cas, elle est en chemin, mais ça lui appartient. Voilà. Je pense que c'est une très belle conclusion. Est-ce que tu es en train de travailler sur quelque chose d'autre, d'autres histoires, racontes, romans? Oui, je suis en train de terminer un récit sur une histoire d'adoption qui est une fiction, mais je me suis quand même basée un peu sur quelque chose que je connais, parce que ma fille Léa est chinoise d'origine, et donc il y a 10 ans qu'on s'est rencontrés en Chine, à Pékin. Et donc Daniel, de nouveau lui, m'a demandé d'écrire là-dessus, mais en m'éloignant vraiment de mon histoire et en me donnant beaucoup d'autorisation par rapport au personnage. Oh, d'accord. Donc une fois que tu es prête, nous sommes ici. D'accord. Pour en donner diffusion encore une fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un, quelqu'une qui te souhaite remercier ce soir au micro de Bruxellando? Ben, il y a quelqu'un dont j'ai déjà parlé beaucoup, donc Monsieur Daniel Simon, s'il m'entend, merci beaucoup, parce que sans lui... Je n'aurais pas eu la joie, en tout cas, de découvrir Esperanza et son histoire. Voilà. D'accord. Et Bruxellando aussi, vais remercier aussi Daniel, qui était notre hôte il y a quelque temps. Donc, oui. Bonjour, Daniel. Bonsoir, Daniel. Donc, je vous souhaite, donc, l'aide, collection G, couleur livre, et je vous le conseille vivement. Ah oui, bien sûr, il faut le lire. Il faut le lire, absolument. Je sais à son dernier. Les vingolos. Va bene. Giorgio si è drogato. Comunque mi piace. Gli esperimenti mi piacciono sempre. Se c'est le diable dedans. Pas plus que ça. Le diable de donne, secondo me restiamo comunque in tema, restiamo in un certo senso in tema, perché io stasera vi parlerò della donna del tenente francese di John Fowles. Noi abbiamo già parlato di John Fowles con il suo libro Il Mago, che secondo me è molto particolare, ma adesso comunque rimane un autore particolare, perché è un autore che sempre... Mette le sue storie in un certo senso in un contesto filosofico, cioè lui fa sempre delle riflessioni sulla società, sui suoi personaggi, su come agiscono, su dove vanno, su delle deviazioni piuttosto dal contesto normale. E quindi anche in questa storia, che si svolge nell'età vittoriana, si tratta di personaggi particolari, si tratta di una ragazza, Sarah, che è la donna cattiva, diciamo, del paese, perché ad un certo punto della sua vita ha conosciuto questo famoso tenente francese, se ne è innamorata e poi è andata a incontrarlo in un villaggio e tutti pensano che lei abbia fatto qualcosa. E comunque come personaggio lei è strana, perché sembra di volersi punire, di non sentirsi, diciamo, parte della società, ma autocondannandosi. È un personaggio che è molto sincero, molto diretto, non assolutamente non in linea con il personaggio femminile dell'età vittoriana a cui diciamo gli uomini in quel periodo erano abituati, o a cui anche la società era abituata. E Charles, il personaggio principale, incontra questa donna, e il suo viaggio dal momento di incontrare, pensarla piuttosto un peso o comunque un qualcosa che turba il suo modo di essere, l'incomoda, se possiamo dirlo così, fino ad accettarla come una cosa essenziale, necessaria per la sua felicità, diciamo. E allo stesso tempo lo scrittore è sempre presente e fa dei commenti, ma fa dei commenti anche dal punto di vista di mettere in chiaro che lui non sta influenzando la vita dei suoi personaggi, sono i suoi personaggi che vivono, e questa è una delle ragioni perché cui rimaniamo in tema, perché anche Fowles sembra di essere, cioè, un creatore che che lascia vivere i suoi personaggi, li lascia fare le sue scelte, non sa dove vanno a parare. E infatti lui dice ad un certo punto, e non so se mi ricorderò bene, che fondamentalmente essere Dio vuol dire dare la libertà, avere il potere di dare la libertà alla gente, cioè a quelli che sono sotto il tuo potere, di fare delle decisioni, cioè di vivere la loro vita, diciamo. E durante questa storia ci sono un sacco di, diciamo, un sacco di riflessioni di come cambia la società, per esempio, specialmente nella mente di un individuo. Cioè, uno può essere, per esempio, nell'età vittoriana un darwiniano, ma non per quello, cioè, quello non vuol dire che nella sua vita privata è così facile staccarsi, diciamo, di diventare moderno da un momento all'altro. Se possiamo dirlo così, cioè uno è sempre fra le idee nuove e fra comunque dei valori che diciamo imparati, in cui uno comunque crede in qualche modo. Cioè, è difficile lasciarsi indietro di dire, per esempio, lui è uno che è fidanzato con una ragazza ricca, giovane, bella, anche carina, cioè non ha nessun, cioè la ragazza non ha particolarmente dei difetti, se possiamo dirlo così. E al momento che lui decide che la sua felicità è con Sarah, comunque deve dire addio a questa altra ragazza. E nell'età vittoriana questo vuol dire che praticamente ti possono citare in causa per aver, diciamo, non rispetto della parola, fondamentalmente. Mm-hmm. E lui è costretto anche di firmare un documento in cui si dice che io non ho più il diritto di essere chiamato un signore, cioè di essere considerato un signore della società. Mi sono autoescluso, diciamo, facendo questo gesto di lasciare, diciamo, di rompere questo legame con questa ragazza senza che lei ci dia alcuna ragione per farlo. E comunque tra questo si sente che c'è un, e lui non riesce a non sentirsi affetto da questo, anche se lui sa di fare la cosa giusta, anche se lui sa che fondamentalmente questo matrimonio sarebbe stato fondamentalmente un fallimento a lungo termine, anche se lui sa che ha fatto una cosa giusta nel rinunciare e nel cercare e di accettare se stesso, fondamentalmente i suoi desideri, di quello che vuole fare, lui non riesce a non essere affetto per firmare il fatto che non mi posso più considerare un signore perché perché ho fatto quel che ho fatto. C'è sempre, e secondo me questa è una cosa universale, forse, che è valido in questa situazione un po' forte, ma è valido magari anche ai nostri giorni, nelle nostre vite, nelle piccole decisioni e grandi decisioni che noi stiamo facendo, e lo sguardo di altri che si posa, diciamo, sui nostri fatti. E di nuovo stiamo tornando sullo sguardo interiore e sullo sguardo esteriore e la loro importanza. Quindi è un romanzo molto interessante, con dei svolti assolutamente non scontati. Infatti non vi ho detto niente, proprio per non farvi perdere, diciamo, lo sviluppo della storia. E ve lo raccomando per dei tempi in cui avete voglia un po' di riflettere, di pensare sulla vita, su noi stessi, sulla società, su tante cose. Per riscoprirsi, insomma. Insomma, per riscoprirsi. Ed eccoci nuovamente qui, cari amiche, cari amici, Radio Alma, Brussellando, Mari D ai microfoni. Siamo agli sgoccioli anche di questa puntata, quindi abbiamo ancora qualche minuto per raccontarvi di quelli che sono gli eventi che animeranno le prossime serate. Dopo aver parlato di Foveless. Ok, come al solito. Ma quello in inglese, in italiano è Foveless. Cioè, praticamente vuol dire, come si dice in italiano, il nome collettivo di tutti gli animali con le ali. I volatili. I volatili. Esatto, si chiama detto, volatili, abbia. Il povero. Volatili. Ma chi? Ma di cosa stiamo parlando? Ma che c'entra? Dell'autore di prima. È Giovanni Volatili. Dai. Ma che c'entra? Piacere c'entra Giovanni Volatili. Il fatto che all'inizio avevamo detto Atomium, Atomium, ah! False, Foveless. Giorgio, solo tu puoi che, fare questo che tipo di associazioni. Siano presenti, siano presenti. No, eravamo tutti assenti. Ma sì, perché no, comunque pensiamo un attimino a Skype. Come pronuncia il nome tu delle persone? Skype. Skype o Skype? Skype. Skype è più bello. Skype? Sì. Io no, conosco anche gente che lo chiama Skype. Skype. E c'è anche la carta italiana di Poste Pay, che è Poste Italiana e Pay, Poste Pay, che lo chiama Post Pay. Post Pay? Eh sì, perché sembra tutto inglese, Post Pay. No, no, beh, è perché Poste le poste pay. Hanno voluto associarsi con la... Non lo so, però perché chiami Post Pay? Perché sai, è Pay, Post Pay, scusa. Insomma, bene, la lingua proposito... è qualcosa di mobile e si modifica. Non ti voglio far parlare di questa cosa che so... che già annuncerai fra poco, che riguarda il cinema, ma io non ti voglio parlare. Ma io tra l'altro volevo fare anche il link con quello che dicevi, no? Ah bene, allora vai. Linka, altra parola, come anche si creava? Collegamento. Sì, è collegamento, il link, volevo fare il link. Scusa, ma quando tu devi dire forwardare, come dici? Inoltrare. E anche volendo reinoltrare, che è un'altra volta. Mi forwardi la mail, che devo fare? Perché non... scannare? Addirittura. Mi scanni? Faxamelo. Ma non si usa più il fax. Faxare, insomma, forse faxare ci sta, ma scannare. Telecopia in italiano. Sì, telecopia, è vero, telecopia. Però ma chi lo usa? In inglese. Facciamo un attimo un'indagine. No, non lo usa nessuno. Come allora. Quando i francesi lo chiamavano le email courriel. Lo chiamano ancora così. Sì, vale. Non lo dice più nessuno. Si dice scannare o scannerizzare o scansionare. Le tre sono accettate come sinonimo. Ma no, guarda, scannare assolutamente no. Scansionare è scansionare. Scannare l'ho sentito, altrimenti non sì, te l'avrei mai proposto. Scannare, però scannare è in italiano è un'altra cosa. Scannare vuol dire aprire la gola. Scannerizzare non si usa. Perché veramente? Perché viene da scanner. Siccome scanner è uno scansionatore, si fa una scansione. Si fa una scansione. Però pochi lo sanno. Bene, allora faremo una puntata, siccome da qualche giorno penso sia in edicola il nuovo Zingarelli, quello 2011-2012. Io sono per il Devoto Oli. Vabbè, comunque sono stati pubblicati da poco e ho letto un articolo su Repubblica molto interessante, magari potremmo la settimana prossima soffermarci qualche momento sui neologismi. Di ultima generazione, che ne dite? Vedendo cosa ci dice la Teogonia di Esiodo. Sulla teoria di Esiodo sto sempre aspettando te, perché tu sei l'esperto. Vabbè, non mi ripeto, perché il principio già sappiamo cos'era. Sentite Mari Di che ha un consiglio molto interessante per ritornare alle origini. Per ritornare alle origini, quindi, parliamo di archeologia. Siccome tu dicevi che la lingua era mobile, in un certo senso l'archeologia ci ricorda un po', no? Quello che eravamo. Certo. E questo è uno degli eventi che da quando Bruxellando è nata, cioè circa... ormai 4 anni fa, ne abbiamo sempre parlato, ed è il Festival del Film Archeologico di Bruxelles, che è organizzato dall'associazione Kineon. Il festival avrà luogo, come d'abitudine, il 4, il 5 e il 6 novembre. Si inizia venerdì 4 al pomeriggio alle 2, con gli enigmi della Sfinge, che restano sempre attuali, e poi si prosegue con quella che è la serata di apertura, alle 20 e con tutta quanta insomma quella che è la serata, e poi si prosegue il sabato e la domenica dedicata insomma un po', per esempio c'è la serata Neanderthal, George, non so se ti può interessare, alle ore 20 del sabato 5 novembre, quindi probabilmente sì, cioè George è un po' neandertaliano. Nell'aspetto sono laido anch'io, va bene, nello sguardo. Questo non lo vogliamo, insomma, noi non ci siamo, altrimenti avremmo partecipato molto volentieri. E invece sabato e domenica pomeriggio, quindi il 6 novembre, giornata di chiusura, e insomma non c'è nulla di particolare da segnalare. Il premio miglior film, c'è la conferenza di Pierre Tallet, La Mer Rouge à l'époque pharaonique, bilan et perspective, quindi magari questo può essere interessante. L'era faraonica, George, Ne abbiamo già parlato, no, dell'antico Egitto la settimana scorsa, vedi che ci sono temi che poi ritornano, e alle 19.30 poi c'è la cerimonia di chiusura e quindi il premio, sapremo chi sarà il vincitore del Festival Archeologico di Bruxelles per anche il 2011. Vi voglio anche ricordare che l'associazione Kineon, insomma, per quanti fossero amanti dell'archeologia, organizza anche conferenze di un certo rilievo, tra cui l'ultima a Bordeaux qualche mese fa, sull'archeologia e la politica. Il tema sembra abbastanza interessante. C'è un altro tema interessante. Per esempio? Invece di guardare i film, uno cosa fa? Mentre guarda i film mangia popcorn. Ecco, invece sì. Mangiare popcorn si mangia qualcos'altro. E infatti... c'è la festa dei 40 anni del Quick. Il 40 anni, compie 40 anni del Quick. Il Quick compie 40 anni, è nato in Belgio nel 1871, poco dopo la rivoluzione. Che giorno? Quando è nato? Che ore? È nato esattamente il 12 marzo alle ore 4. Perché lo festeggiamo oggi, scusa? Beh, perché non è che si può festeggiare. Non vale, periodo, pure no? Lui è nato sotto il segno dei pesci. Sì, però d'estate gli hamburger forse non valgono, anche d'estate, se anche se, insomma, l'estate qui bisogna vedere, maggio, aprile, maggio, e poi qui si c'è l'alternanza delle quattro stagioni più o meno tutti i giorni. Esatto. E comunque, per chi vuole provare gli hamburger nuovi di qui, che insomma, che avrà delle idee particolari per festeggiare sui 40 anni, soprattutto sul buon gusto, no? Sul buon gusto, perché no? Potrebbe anche essere buono. Vabbè, ci sono anche dei regali e dei dessert particolari. Io allora però ci vado. Avrà una festa, farà una festa a Tour et Taxi. Pure? Eh sì, a Tour et Taxi, e quindi... Con serata a ingresso libero? Quando? Certo, è gratuito, ed è dal 6 ottobre, quindi è già cominciata, fino al 30 di ottobre, fino al 30 di questo mese. Ah, quindi finisce tra poco, vabbè. Quindi avete un po' di tempo, se andate a che fare un giro è? A Tour et Taxi... No, è sempre, dalle 11 alle 17.30. Ah, è proprio sì. Da belga l'orario, scusate. Beh, è per la pausa pranzo, non è per la pausa. No, pausa pranzo, come faccio ad andare lì? Lo so, ma non... Daniele, ci organizziamo, ci andiamo. Tu sei un amante degli hamburger. Se no, ci andiamo nel weekend. Dai. Quando hanno organizzato, io ho chiesto, scusate, ma Meridì non può venire in questo orario. Allora, era alle 5, hanno spostato fino alle 5 e mezza. Più di questo non... Ti ringrazio, George. Prego. Tu che tutto puoi. Vincerà il premio Nobel al fast food. Alla mediazione. No, non si parla di fast food. Per piacere, siamo su tutt'altro onde. Siamo su Quick. Poi ognuno dentro di sé può pensare ciò che vuole, perché il pensiero è e deve rimanere libero. Però non si dice. Però infatti è come il voto, resta segreto. Cari amiche, cari amici, siamo nuovamente qui e anche questa puntata di Brussellando è al termine. È soprattutto stata freddo, sì. Noi ringraziamo Italia Gaeta, che è stata qui con noi e ci ha raccontato di questo suo primo racconto, LED, che vi ricordo essere edito da Couleur Livre Collection G. Grazie. Italia, noi ti ringraziamo, veramente siamo stati felicissimi di averti nostra ospite. Qualora dovessi scrivere, qualora dovessi invece poi anche rappresentare insomma, dei tuoi racconti, raccontarli, facci sapere, ne daremo anche diffusione qui dai nostri microfoni. Saluto per la parte tecnica Dani M. Grazie, buonasera a tutti. Fiordaliso per i suoi suggerimenti di lettura. Grazie a voi. Brussellandopedia. Alias Giorgio Laurent, che invece devo ringraziare Italia perché ha dato origine, lui ha ispirato una delle più belle sighe di Librangolo. Cioè, mi faceva ricordare il diavoletto di Tasmania. Bellissimo. Beh, vedi, ciascuno porta quel che può, quindi insomma l'incontro è tutto lì. È la nostra grande Meridì, senza la quale tutto questo non esisterebbe. Noi vi auguriamo un'ottima settimana e ci ritroviamo martedì prossimo. Miau. Arrivederci.